Minute, hour, bigger, better, stronger, power. Doesn't kill you, only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again. Viratevi, viratevi, viratevi, viratevi. Qui Alex Foti da Milano Nord, nella sua cameretta, contempla la primavera rigogliosa. È un giorno bellissimo, siamo in casa. Niente, oggi è entrato in vigore l'obbligo di mascherina per tutti in Lombardia, già fin dal primo programma ricordavamo a tutti che bisogna mettere la mascherina fuori per mesi a venire verosimilmente, quindi meglio procurarsela. Ormai finalmente sono tornate in giro, non so, la farmacia del Gallaratese c'è, ci dicono i nostri amici di zona 8, qui siamo in zona 9. Comunque la cosa incredibile è Borrelli Pirla che dice che non si vuole mettere la mascherina. Va bene che Roma hanno meno casi, ma insomma, ma che esempio dà questo qua della protezione civile? Poi non si capisce la governance assolutamente barocca, Conte Speranza, questo qui si stava rivelando non capace a fronte delle morti, prima dei 10.000 morti, ormai siamo oltre 12.000, 9.000 quasi, 8.500 in Lombardia, insomma un'ecatombe. Gli hanno affiancato il commissario straordinario, ma perché allora lui non l'hanno mandato a casa? Comunque certo la regione Lombardia non si può dire innocente del numero di morti, soprattutto vista la decisione esiziale iniziale di Gallera o Gallera, diteci voi ascoltatori, che di chiudere Codogno, di trasferire pazienti in tanti ospedali vicino, che poi si sono trasformati in focolai di infezione. Le case di cura, diciamo così, gli ospizi sono ormai death camps. La gente muore ovunque, in Italia come in Spagna, gli anziani muoiono e i sanitari senza protezione. Non può più esistere il lavoro non protetto, non può più esistere il lavoro non indennizzato, non può più esistere il lavoro senza il raddoppio dei salari per coloro la cui opera, dalla cui opera dipendiamo tutti, i sanitari in primo luogo, i food and delivery workers, le cassiere dei supermercati, i magazzinieri, tutti i precari che ancora devono lavorare, così come quelli che hanno perso il posto, che hanno perso contratti, i freelancers che si trovano in una situazione di destituzione, di povertà improvvisa. I soldi non sono ancora arrivati. Salva Italia di 2 settimane fa, ma chi ha visto una lira? Da questo punto di vista, comunque, la grande domanda, oltre al futuro economico, che comunque certo ci deve preoccupare, ma dobbiamo anche sconfiggere questa epidemia, cioè il trade-off fra business e morte è evidente che non può andare a favore della morte, no? Ok, oppure no, per meglio dire, il trade-off fra business e vita deve andare a favore della vita delle persone. Fermiamo l'epidemia a Milano, la battaglia di Galli, del Sacco, lui generale che ci conduce alla vittoria, non è ancora vinta. Anche se ci sono dei segnali incoraggianti, comunque, almeno, beh, diciamo, la mia osservazione empirica è la finestra e il numero di ambulanze che transitano. Ieri e l'altro ieri è stato tremendo, oggi veramente poche. Comunque, non so se questo sia indicativo di tutti gli altri quartieri. Su Facebook, da sud a nord, comunque sembra che finalmente si stia calmando la pandemia a Milano. Certo è che il virus viaggia chiuso nelle case, nelle famiglie, rinchiuse, le persone continuano a contagiarsi. Finalmente si fa come in altre regioni, il Veneto, l'Emilia, assistenza a casa con unità speciali. Comunque per noi telelavoratori, per tutti noi che abbiamo tempo da pensare, tutti abbiamo da pensare in questo periodo, la questione è che cosa succederà, il dopo, come sarà. Non sarà di sicuro uguale a prima, ma potrebbe essere meglio, potrebbe essere più ecologico e socialista, più ecologista e femminista. Temo non sarà più libertario dei 30 anni che abbiamo vissuto, ahimè, ma potrebbe essere più egualitario. Di sicuro il lavoro serve per sconfiggere l'epidemia, il capitale molto meno, a meno che non faccia ventilators e masks. Dunque, abbiamo notato che Olga Tokarczuk ha scritto un editoriale molto interessante sulla vita dopo il Covid. Lei è un'introversa. Trova comunque questa condizione non difficile da affrontare. Ci ricordano gli ascoltatori più informati di noi che lei è Nobel per la letteratura, no? Nobel letteratura 19, data nel 19 per il 18, dopo lo scandalo Me Too che aveva travolto il premio Nobel per la letteratura. Confesso di non seguire più il Nobel da quando l'hanno dato a Dylan e lui non è andato, e poi Patti Smith ha steccato pure la sua canzone, insomma è stato un disastro. Cioè, poi si sapeva che lui non sarebbe venuto. Bob Dylan viene dal Minnesota, non so se lo sapete, è una curiosità. Comunque, ho visto la sua casa dove ha vissuto negli anni preuniversitari. Niente, boh, sì, è musica, non è poesia, insomma, boh, io sono abbastanza tradizionalista, la letteratura si dà a scrittori e poeti. Comunque, Olga Tokarczuk, Flights è il suo romanzo più importante. Un editoriale che mi ha molto colpito è quello di John Gray sul New Statesman. È un'analisi interessante anche dei mutamenti geopolitici, il fatto che comunque l'epicentro geopolitico mondiale ormai si sta inesorabilmente spostando a Oriente, perché vuoi la Cina, vuoi Corea, Hong Kong, Singapore, Taiwan, insomma, comunque un modello più interventista. Più egualitario, ma anche meno rispettoso delle libertà individuali. Voglio dire, il Giappone di sicuro è una società dove c'è maggiore sorveglianza e maggiore repressione di quello che siamo abituati. Taiwan forse è la società più vicina alla nostra, insieme a Hong Kong, insomma, dove ci sono diritti transgender assicurati e una democrazia funzionante. E anche il femminismo, i diritti delle donne in Asia hanno da fare, ma comunque anche Taiwan da quel punto di vista è una società avanzata, certo minacciata da Xi Jinping. Ma comunque John Gray sul New Statesman. Adesso faccio una piccola pausa, vi lascio ai Divo come consueto. Qui è radiovirus.org, la radio di movimento, e ci risentiamo presto. Ciao! Viratevi, viratevi, viratevi, qui Alex Foti su radiovirus.org, la radio in streaming delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, di Macao e di tutti i soggetti ribelli, autonomi, cooperativi, comunisti, anarcosindacalisti nel mio caso, eccetera. In questa seconda parte del programma commentiamo il mio feed di Twitter, ovviamente scelgo l'olio dal miglio, viceversa. Da proporre ai nostri ascoltatori. E quindi qui c'è una foto dal 1918, l'epidemia di spagnola negli Stati Uniti, sbirri, uomini vestiti bene, lavoratori tutti con la mascherina. E niente, oggi sul canale di Extinction Rebellion, live streaming su Facebook e videoconference su Zoom, ecologia politica per leggere la pandemia, crisi ecologica, giustizia sociale e movimenti. E oggi, 5 aprile, alle 21, con Emanuele Leonardi, il sociologo dell'Università di Parma, ambientalista, egualitarista, un attivista anche. L'ho avuto la fortuna di incontrarlo al piano terra Ed è stato così gentile da includermi nel suo ultimo libro, di includere una citazione da General Theory of the Precariat, I'm not worthy. Grazie Emanuele, ti sentiremo volentieri stasera alle 9 su live Zoom. Scrivi a xrmilano@protonmail.com oppure vai sulla pagina Facebook di Extinction Rebellion Milano. Parleranno di coronavirus e crisi alla luce dell'ecologia politica. E allora la parola del giorno è Xiaoge, o meglio si dice, penso si pronunci in cinese, Xiaoge, cioè il lavoratore delle consegne di cibo, il delivery worker in Cina. Un articolo dell'Economist ricorda come a Shanghai e in altre grandi città i salari di quelli che erano lavoratori rurali che dovevano lavorare in fabbrica sono aumentati, tanto che molti sono passati appunto a fare le consegne, e la figura del Xiaoge è distintiva di questo periodo ormai quasi post-virale in Cina, anche se è chiaro che si tratta di una semivita, di una half-life, non di una vita piena. Infatti l'articolo dell'Economist è Visible and Vocal, Delivery Apps Have Transformed Urban Life in China. Infatti anche a Milano praticamente sono solo i fattorini in bici che vediamo, a parte le forze dell'ordine che stanno perseguitando i ragazzini, almeno a detta dei feed Instagram dei liceali e delle liceali che conoscono. A San Siro ho visto il video di un ragazzo ammanettato, maltrattato, buttato in macchina mentre dai balconi si inveiva contro di lui. Il poliziotto ha anche dialogato con i balconi, no? Dicendo ti vengo a prendere, scendi, insomma le solite tarrate che siamo usi a vedere. Insomma, ascoltatori adolescenti, va bene, ok, sono una generazione X, però sono molto attento alla violazione dei diritti dei ragazzi, quindi, e soprattutto dei ragazzi di Milano, la metropoli che amo e dove ho scelto di passare questa epidemia, insomma scelto, è casa mia, non potrei andare altrove. E allora, quando finirà questa benedetta pandemia? Come saranno i luoghi pubblici? Come sarà l'abitare? Come sarà il design? Come sarà l'azione politica? Ma io penso che comunque quando si tornerà veramente per le strade, la gente si ribellerà. Se andrà a destra, hard right o hard left, nationalist right o national populist right, destra nazional populista o hard left, sinistra dura di tipo ecofemminista ma comunque militante, tosta, che non fa sconti, si vedrà nei mesi e negli anni a venire. Certo è che il Covid sta riportando la fame in America, cioè un paese dove i servizi sociali sono sguarniti, un paese altamente ineguale, per questo più esposto all'epidemia, oltre che alla stupidità di Trump. Niente, una notizia completamente ortogonale, però se ci tenete a saperlo, le vetture elettriche sono fortemente aumentate durante la pandemia. In testa la Renault Zoe, seconda la e-Golf e la terza Model 3. E da Tesla, lo stronzone appunto Elon, a basso gli Eloniani, che aveva negato l'importanza e il peso dell'incipiente pandemia. Niente, il lobbying sulla K Street a Washington conosce un periodo di fortuna, perché con 2 triliardi dati a business, soprattutto a individui in secondo luogo, c'è tanto lardo da accaparrarsi, e quindi c'è da chiamare il senatore che è in tasca, c'è da chiamare il rappresentante. Uno che non è in tasca di nessuno è Bernie Sanders, che dice dobbiamo porre una moratoria immediata su sfratti, chiusure e stacchi delle utenze elettriche, eccetera, per evidentemente morosità. Ci vuole un rescue package. Comunque Mnuchin manda $1,200 alle famiglie. Ho scritto oggi un articolo su NetTime appunto dicendo che i soldi stavano arrivando, in effetti non sono ancora arrivati, perché poi ho letto questa notizia: arriveranno nel weekend di Pasqua alle famiglie, come vedete. Cioè, il fatto è che se non ci sono cash payments, se non ci sono pagamenti, non arrivano assegni, in America si muore di fame, cioè la gente non sa dove sbattere la testa. Tanto che uno, prima di essere intubato, a New York ha chiesto: ma chi è che pagherà? Ragazzi, Dio, va bene morire soli, ma anche quella paranoia che poi il debitore lo puoi pagare. E qui è una grande immagine, ragazzi, quasi mi porta le lacrime, se non avessi già pianto stamattina sentendo le hit degli anni 10, non so, che trasudavano, comunque erano periodi di post-crisi, boh, insomma, le hit erano gioiose. E niente, qui siamo al picchetto di Amazon a Chicago, alla 2801 Southwestern Avenue, di fronte al magazzino, con i gilet orange, tanti neri stanno bloccando l'uscita dei furgoni di Amazon Prime. Sciopero di Amazon, sciopero dei gig workers. Se il capitale non vuole proteggere i lavoratori, l'unica forma di distanziamento sociale è lo sciopero generale. Allora, dottori, medici, infermieri adesso affrontano un problema, cioè in America come altrove la mancanza di protezioni, l'alta incidenza della mortalità fra medici e infermieri. E vogliamo ricordarlo ancora, fra le professioni mediche e paramediche sono molto più colpite le donne, cioè avviene il contrario di quanto avviene per le morti in generale, in cui 2/3 sono uomini dai over 65, anche se il rischio fra 50 e 65 è notevole, e viceversa per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica, riguarda prevalentemente infermiere e di età più bassa, intorno ai 40 anni, poco più di 40 anni, insomma, quindi le donne pagano un prezzo doppio nella lotta contro il virus. Niente, qui c'è il polpo di Stato, la Xenoleft. Oggi è stato annunciato la scoperta, o comunque l'impiego, di Xenobot, che sono appunto mini robot cellulari che fanno il loro mestiere all'interno dell'organismo e poi decadono, nel senso, lo stavo leggendo prima, wow, insomma, se poi lo mettiamo in coppia allo xenofemminismo, forse potremmo proclamare questo lo xenodecennio, ecco, insomma, di sicuro speriamo che la xenofobia sarà sconfitta. Niente, qui c'è City Lab. Certo, il futuro delle città è in primis nella mia testa. Questo è un laboratorio di municipalismo progressista che indaga la storia delle luci al neon. A me piacciono tantissimo, come ad Adjourn, che non so se in ascolto, che comunque saluto, mi manca molto la signorina Cores che batteva macchina in Piazza Duomo, oppure quando a 11 anni vidi le luci di Piccadilly Circus, fu la cosa più bella che avessi mai visto fino a quel momento. Quindi, insomma, se volete rivisitare la storia del neon e degli altri gas nobili, guardate City Lab. Niente, ormai le morti a New York superano 3.500. E adesso, mi diceva il mio amico di Chicago, anche in Illinois i morti stanno crescendo. Una notizia incredibile da Bloomberg, che si è ritirato dalla corsa a presidente, a candidato presidente del Partito Democratico. Coronavirus is spreading and cruise ships are still sailing. Il coronavirus si sta diffondendo e le navi da crociera stanno ancora circolando, ragazzi. C'è una mappa globale con i puntini. Ce n'è dappertutto, cazzo. Non ci posso credere, vabbè, devono affondare, ma, cioè non con le passeggeri a bordo, ma le aziende, gli operatori delle navi da crociera, veri vettori di contagio e pandemia. Niente, qui c'è un advertising, un anti-pub a Hong Kong, un profumo che si chiama Essential, I am Essential. C'è una ragazza che guarda verso l'orizzonte speranzoso, gli hanno messo la mascherina nera e consigli di sanità pubblica, quindi la mascherina is essential. E in Lombardia è pure un dovere legale. Allora, niente, appunto, dice che a Hong Kong le restrizioni, sapete che c'è stato un secondo outbreak, sono in qualche misura xenofobe, perché sostanzialmente vietano il consumo di alcol nei bar perché le donne verrebbero sedotte grazie all'alcol, o comunque ci sarebbe, e quindi notavano questo aspetto. Insomma, vabbè, stanno messi bene, se hanno ancora di questi problemi, ovviamente, perché noi un campare in compagnia che a 3 metri di distanza ce lo scordiamo. E quindi, allora, niente, appunto, qui invece c'è l'impronta urbana di Cincinnati e le trasformazioni, cioè l'aggiunta delle autostrade, come hanno trasformato le grandi conurbazioni americane. Pensiamo a come è stata trasformata Milano dalla tangenziale o Roma dal grande raccordo anulare. Niente, Reuters. C'è appunto un vicolo di una città italiana, tante donne in fila, e appunto la Reuters, la massima agenzia di stampa mondiale, dice che i gruppi, le associazioni di solidarietà alle donne maltrattate credono che la quarantena stia silenziando le vittime di violenza domestica e abuso. Niente, ovviamente con 2 miliardi di persone a casa e interi settori produttivi chiusi, la perdita di posti di lavoro è senza precedenti. In effetti non c'è mai stata un'impennata di richieste di disoccupazione negli Stati Uniti come oggi, neanche fra il 29 e il 32. Cioè, si può pensare che ci saranno, come in Europa, anche del resto. Cioè, scusate la mia americanofilia, ma penso che magari si sappia un po' meno di quella sponda dell'oceano, ma è chiaro che il Covid sta distruggendo milioni di posti di lavoro, e che se non ci sarà un impegno deciso, emergenziale, di trasferimenti sociali, di reddito di cittadinanza esteso a tutti, non ne usciremo per diversi anni. Niente, in Brasile Bolsonaro, neutralizzato dai generali, l'hanno messo in condizione di non nuocere. Bill Gates ci fa sapere che sta aprendo 7 fabbriche per sviluppare 7 vaccini contemporaneamente. Alcune non andranno da nessuna parte, vabbè, saranno miliardi spesi, ma insomma l'implicazione è: non me ne frega un cazzo. Vabbè, meno male, a Bill, beato te che ce li hai da spendere. Ed ecco, una notizia allucinante, mentre continua appunto la menata e il coprifuoco, tracciare la gente, fargli le multe, blindare gli adolescenti in macchina perché non hanno i documenti, migliaia di aziende metalmeccaniche riaprono lunedì, allarme dei sindacati, lavoratori a rischio. Cioè no, allucinante, ragazzi, cioè metalmeccaniche per fa che? Cioè solo le fabbriche che fanno mascherine oppure la Barilla devono stare aperte. Insomma, gli perdoniamo pure l'omofobia in questo momento che dobbiamo essere riforniti. Cioè dai, cazzo, fate il ponte aereo da Fidenza, Parma, Fornovo, dove cazzo siete. Vabbè, insomma, niente, l'odiato Me Tomorrow, perché è il Milano X Doppelganger istituzionale, che comunque, vabbè, riporta sempre notizie interessanti, per esempio questa delle ricette mediche via SMS, email, che è possibile adesso in regione. C'è il volantino che dice come fare, quindi insomma ovviamente c'è anche sul sito della Regione Lombardia, se dovete chiedere ricette e andare in farmacia c'è un modo veloce di farlo. Niente, qui c'è un laboratorio fai da te per trasformare una bandana con due elastici per la coda in una efficacissima cloth mask, maschera di tessuto, molto ingegnosa le pieghe che usa, senza quindi dovere cucire, anche se ovviamente per le cucite sono ancora meglio, ma è veramente bellissima il risultato finale. Questa è Constance Jones, e niente, è una risorsa se avete un bandana. E niente, Tajani che mette il coronavirus di Forza Italia per chi ancora cagasse la sua esistenza. Vabbè, ok, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, comunque fa vedere una strada che non è italiana, quindi, perché vedo i segnali tipo americani, comunque una strada che è piena di palloni coronavirus con gli spikes, le protuberanze ormai arcinote, qui li hanno disegnati anche sui muri, e comunque ci sono questi palloni coronavirus che rotolano lungo la strada, quindi insomma questa è l'idea che Tajani vuole trasmettere e la twittara gli consiglia una bella analisi. Niente, Marianne Faithfull, ricoverata, cantante britannica, qui immortalata insieme a David Bowie nei primi anni 80, mid 80, 74 direi, è ricoverata in ospedale col Covid. La Cina, una cosa incredibile, dona ventilators, respiratori, a New York. Il governatore Cuomo, lasciato a piedi da Trump, accetta l'aiuto cinese. Capite che sovvertimento completo c'è nella gerarchia mondiale. L'Eurasia, The World Island, secondo Mackinder, iniziatore della geopolitica, il dominio sull'Eurasia torna a essere al centro del mondo come è stato da millenni nella storia dell'umanità, e quindi il predominio sulla politica globale si ritira dagli oceani, Atlantico e Pacifico, e ritorna nelle steppe, nella via della seta, nell'oceano indiano, nelle rotte battute dai cinesi, dai musulmani e poi dai portoghesi. Insomma, l'Eurasia, l'integrazione eurasiatica sembra essere il profilo futuro geoeconomico a venire. Ma l'Europa come affronterà questa impresa, questa sfida? Bah, vediamo. C'è stato un accordo franco-tedesco al ribasso, secondo me è il danno al progetto europeo permanente, però non voglio essere pessimista, ci sono quelli che dicono dalle crisi l'Europa rinasce sempre più forte. Certo è che avere Draghi qua invece che Conte, cioè, certo, allora saremmo più tranquilli che qualcosa di efficace sarebbe fatto sia dalla BCE da una parte che nella cancelleria di Berlino, dove comunque Angela Merkel incassa politicamente consenso, perché comunque ci sono pochi morti e questa crisi ha rinazionalizzato tutto. Oggi Farid Zakaria, un commentatore liberal di Foreign Affairs, appunto notava come malgrado l'evidente transnazionalità dell'epidemia, in cui il presente dell'Italia predice il futuro della Spagna, della Francia e così via, e non ci sia stata una totale mancanza di assenza di collaborazione. Cioè, pare proprio che tutte le istituzioni del liberalismo stiano fallendo nella loro impresa. È come se il liberalismo come sistema di pensiero, mi suggeriva Dino, l'anarca della trattoria popolare, fosse sotto attacco completo. Certo è che la politica continua a registrare cambiamenti, per esempio Corbyn